Posso sbagliarmi, ma ho l'impressione che la provvisoria caduta del governo Prodi, se provvisoria è stata, non la volesse nessuno tra i molti che ci hanno messo mano. Non la volevano i due senatori della sinistra, diciamo così, autoreferenziale, che probabilmente si illudevano di salvarsi l'anima con l'astensione e di lasciare che la sopravvivenza dell'esecutivo provvedessero amore solito i senatori a vita. E non la volevano i due senatori a vita che si sono astenuti nella presunzione, suppongo, che a salvare la maggioranza avrebbero provveduto per una volta i colleghi dell'ala estrema. Si erano incautamente fidati gli uni e gli altri della preveggenza del ministro D'Alema, certi che mai e poi mai l'astuto bombardiere avrebbe posto quella specie di questione di fiducia morale sulla propria relazione, e senza aver ricevuto le più ampie assicurazioni di consenso da parte di tutte, ma proprio tutte, le componenti della sua variegata maggioranza. Poi si è scoperto che l'uomo con i baffi aveva confuso una volta di più i propri desideri con la realtà, che è una cosa che gli capita più spesso di quanto ami far credere, ed è successo quello che è successo. L'altra ipotesi, quella per cui il voto inatteso di Andreotti e Pininfarina sarebbe stata l'espressione di una congiura dei poteri forti, il Vaticano naturalmente essendoci di mezzo Andreotti, ma anche la Confindustria e il Pentagono, da soli o coalizzati, non importa, congiura volta a liquidare a tradimento un governo rivelatosi pericoloso per i loro interessi, mi sembra in tutta franchezza un po' troppo bella per essere vera, troppo bella e soprattutto troppo lusinghiera per Prodi e per i suoi, nel senso che nulla di così pericoloso pare davvero che fosse nei progetti della defunta compagine, per non dire che in essa tanto il Vaticano quanto la Confindustria e il Pentagono avevano i loro bravi puntelli, sì che per richiamare all'ordine eventuali riottosi sarebbe bastata alla fin fine un semplice schiocco di dita. E se è vero che un futuro ipotetico governo Berlusconi potrebbe rivelarsi con un po' di sforzo ancora più accomodante nei confronti di quei poteri, non sembra che le differenze che si possono prevedere siano tali da giustificare lo sforzo di organizzare una congiura e di delegarne l'esecuzione a un personaggio inaffidabile come Andreotti, che chissà poi cosa è capace di volere in cambio. Più probabile, dunque, che il governo sia caduto semplicemente per errore. Come ben sa diceva d'altronde un esecutivo, l'argomento è fondato sugli equivoci e sulle reticenze, che sono figure retoriche complicate, maneggiando le quali è molto facile sbagliarsi. Perché il problema del centro-sinistra non era tanto quello di cui si favoleggiava della contrapposizione tra riformisti e radicali, visto che a un ben scarso interesse per le riforme si aggiungeva in tutte le forze che vi confluivano un'assoluta mancanza di radicalità, quanto la necessità di far convivere una sommatoria di modeste identità e piccoli interessi particolari, in una specie di caleidoscopio di moderati, sedicenti estremisti, clericali, teodem, teocon, tecnici, presunti tecnici, finanzieri di stretta osservanza, finanzieri non tanto osservanti e altri ancora, in un coacervo di gruppi che cercavano di imporsi reciprocamente un punto di vista qualsiasi in nome della comune mancanza di alternative. In questo va detto, i senatori Turigliatti e Rossi, che gli dei li perdonino, non si sono comportati in modo molto diverso dai vari Rutelli, Mastella e Parisi, e il grido qui si fa come voglio io o si va tutti a casa non l'ha lanciato solo D'Alema. E il fatto che l'unica soluzione che Prodi o chi per lui abbia saputo elaborare sia quella di imbarcare qualche altro ex democristiano a titolo individuale, sostituendo l'infido De Gregorio con l'accorto Follini o qualcosa del genere, non fa molto sperare per il futuro, perché rendere ancora più eterogenea una coalizione che non ha saputo resistere alla propria eterogeneità e non sembra una ricetta così brillante. A meno, naturalmente, che il programma sia quello di cambiare politica, dando al timone del governo un deciso direzione a destra, senza prendersi il disturbo di comunicarlo, non dico agli elettori, ma neanche a tutti gli eletti, che sarebbe un equivoco non da poco e probabilmente l'errore definitivo.